Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, noi oggi andiamo a Caserta Vecchia, sì, perché fino al 5 settembre è in scena la quarantesima, non so se rendo, edizione di Settembre al Borgo, il festival diretto poi da Ferdinando Ceriani e Paola Servillo e dedicato per il terzo anno ad un tema che dovremo esplorare un po' tutti, quello della leggerezza. E allora si inizia questa sera alle 19 in terrazza con Stostakovich, il folle santo con Toni Ladaoddio e comunque intanto diamo il benvenuto sia a Paola Servillo, direttore artistico, come abbiamo sentito, buon pomeriggio. Pomeriggio a tutti. Salve. E sia a Toni Ladaoddio, che oggi sarà in scena. Buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Allora, Paola, moltissimi gli appuntamenti di quest'anno per questa quarantesima edizione. Perché avete scelto il tema della leggerezza? E allora, sono praticamente tre anni che ripercorriamo questo tema della prima lezione americana di Calvino in questo territorio, dove pensiamo che ci sia bisogno della sua lezione, cioè quella di una leggerezza pensosa, che non ha niente a che vedere con la frivolezza e che possa questa leggerezza pensosa liberarci dalla pesantezza di questo territorio, almeno in queste cinque giornate, e lanciare comunque un messaggio. Quindi insomma la lezione è sempre quella prima lezione di Calvino, no? Sì, che tutti quanti abbiamo studiate, lezioni che ci ha lasciato in eredità, insomma. Sì, che mi ricordo anche assolutamente che da seguire nella scrittura, no? di essere leggeri, sì, di non usare troppe parole, di usare le parole giuste. Sì, quindi certo. Ovviamente stiamo parlando di una differenza. Sì, che praticamente lavora sulla scelta di spettacoli, di concerti che ripercorrono in qualche maniera questo tema. Ed è un festival infatti dove ci saranno una serie di prime assolute, ci sono spettacoli creati per il festival. Tra questi, se posso dirne due proprio fatti per Settembre al Borgo, c'è un concerto appassionato che è un omaggio alla canzone classica napoletana, creato con la direzione artistica dei Soli String Quartet, su direzione musicale, e che ripercorre la canzone classica napoletana attraverso le voci dalla tradizione di Fausto Cigliano e Angela Pagano a Raiz degli Alma Megretta, Gigi Finizio, Luca Persico, Fausto Mesolella, Fausta Vetere, insomma un ripercorrere, e che sarà una serata ovviamente creata per il festival, quindi un evento veramente unico. Così come un evento unico sono, e ci ricolleghiamo a Calvino, le interviste impossibili, che diciamo, per noi è il terzo appuntamento. Io e Ferdinando dirigiamo questo festival da tre anni e in questi tre anni abbiamo sempre avuto le interviste impossibili, che sono, sapete bene, un programma radiofonico degli anni 70, e il primo a scrivere un'intervista impossibile fu proprio Calvino all'Uomo di Neanderthal. Noi l'anno scorso e quest'anno le abbiamo fatte scrivere per il festival, e infatti quest'anno abbiamo le tre interviste hanno come tema il risorgimento, e abbiamo un'intervista a Mazzini scritta da Giancarlo De Cataldo e interpretata da Remo Girone, abbiamo un'intervista ad Anita Garibaldi scritta da Lisa Ginsburg ed interpretata da Luisa Ranieri, e abbiamo un'intervista alla principessa di Belgioioso scritta da Gianfranco Fiore ed interpretata da Anna Bonaiuto. Mi fa piacere ricordare, appunto, come diceva, che sono 40 anni di un festival in un territorio come il nostro, è sicuramente un punto di orgoglio. Quest'anno abbiamo avuto anche l'alto patronato del Presidente della Repubblica proprio per il tema affrontato, cioè il tema della leggerezza. Stasera, ore 19, alla terrazza, Sostakovich, il folle santo. Thank you. Djokovic, concerto per piano numero 21 in onore del grande compositore russo, questa sera alla terrazza di Caserta Vecchia, in scena Tony Laudaddio, con uno spettacolo Il Folle Santo. Perché questo titolo? Allora, Shostakovich chiaramente è il tema centrale del pezzo, della pièce, che ripercorre in qualche modo la sua vita e le sue opere, ripartendo dalle sue lettere, dalle lettere e dalla sua autobiografia. Il Folle Santo è una figura della tradizione popolare russa, appunto, che viveva nei villaggi, negli antichi villaggi, come una forma mitica che appunto era a metà tra la persona che profetizza e in qualche modo che con la sua vita dà esempio agli altri di quello che può essere la bellezza in generale e la via retta in qualche modo. E Shostakovich mi sembrava la persona più adatta a rappresentare questo tipo di tradizione, che appunto è un grande della sua epoca, che ha vissuto però delle grandi traversie, degli enormi drammi personali interiori, continuando però a conservare questa luminosità nella sua musica che appunto alla fine è stata uno specchio del suo popolo e in qualche modo appunto profeta di quello che poteva essere la loro cultura. Ecco, in questo tuo Shostakovich tu interpreti proprio il musicista, un monologo, come si articola lo spettacolo? Sì, dunque, io sostanzialmente interpreto Shostakovich, però siccome appunto è una voce monologante e questo significa che riguarda anche i suoi pensieri interiori, quello che lui ha vissuto, quello che ricorda lui stesso con la sua stessa voce, ricorda le voci degli altri suoi, dei personaggi che hanno fatto parte della sua vita, compresi i suoi persecutori, voglio dire, parlo di Stalin o parlo comunque del regime russo e dei suoi, come dire, partecipanti, dei gerarchi che in qualche modo lo hanno perseguitato, a cui ha dovuto in qualche modo cedere, arrendersi pur non rinunciando alle sue scelte di fondo sulla musica. E quindi sì, è una voce unica, io faccio praticamente lui, però lui stesso in qualche modo rievoca tutte le sue voci, è un percorso interiore soprattutto. La drammaturgia appunto è tratta da queste lettere, dalla biografia, ma è scritta poi da Francesco Saponaro e Antonio Iannello, che ne hanno tratto un flusso interiore, diciamo, di pensieri e di in qualche modo ricordi legati strettamente alla sua musica. La particolarità di questo monologo è che appunto è recitato praticamente battuta per battuta su molta musica di Shostakovich, quindi di fatto è quasi un musical, salvo il fatto che io non canto ma recito. Ecco, si parla della sua vicenda personale, dell'allontanamento dopo la rivoluzione di ottobre con la controrivoluzione e poi del riavvicinamento alla Russia? Sì, lui ha passato praticamente tutte le varie fasi della rivoluzione d'ottobre. È stato prima favorevole, dopodiché la sua forma così moderna, musicale, era stata attaccata, è stato anche perseguitato in qualche modo per le sue amicizie che erano assolutamente prive di qualsiasi connotato integralista, perché lui dal grande uomo che era non aveva nessun tipo di pregiudizio rispetto alla rivoluzione, per lui era un ideale altissimo e invece la sua applicazione pratica poi lo colpì in pieno, perché fu anche accusato di forma, appunto all'epoca si parlava di formalismo, di controrivoluzionario. No, vabbè. Sì, esatto. Allora, stasera Shostakovich, domani invece è in scena Rosaria De Cicco, una nostra amica oramai di Summertime di Cartellone, che interpreterà insieme a quattro mamme scelte a caso, Annibale Ruccello, Massimiliano Palmese. Allora, Rosaria è in scena con Gea Martire, Antonello Romano, Imma Villa. Giusto, Rosaria? Sì, eccomi qua. Allora, sì, ho ascoltato con grande interesse tutto il resto che offre questo ricchissimo cartellone. Io non so se sentite, sono nel mezzo del del traffico napoletano che è ripreso in alla pieno grande dopo la pausa estiva. E questo spettacolo in realtà è un omaggio ad Annibale Ruccello, quattro giovani autori, Carrino, Palmese, Virgilio e l'ultimo, ora ve lo dico perché mi sono preparata, anche perché non è il mio monologo, ma è un bellissimo monologo scritto da Alessio Arena. E ognuna di noi, Gia Martire, Imma Villa, Antonella Romano ed io, interpretiamo in un reading che in realtà non è un reading, perché il regista Roberto Azzurro è molto bravo anche a far sì che la gente non capisca che noi in realtà stiamo leggendo. È un vero e proprio spettacolo, una mise en scène che si spera divenga un vero e proprio allestimento. Ma di che parla Rosaria? Beh, parla naturalmente di quattro mamme, che sono praticamente un ricordo, ma molto molto molto velato, ecco, proprio en passant, naturalmente è dedicato a Ruccello, perché lui con Mamme o Piccole tragedie minimali ha dato un grandissimo impatto a quello che poteva essere figura materna, in maniera un po' particolare, queste mamme anche un po' crudeli, un po' particolari, i ricordi ancestrali che noi abbiamo anche delle, si dice che la responsabilità delle nostre devianze, come dire, psicologiche, sono tutte così derivate dalle nostre madri, e diciamo questo rapporto di odio-amore, questo rapporto particolare che ognuno di noi ha avuto con la nostra madre, insomma, viene rivisitato questa volta da questi quattro autori che in qualche modo vogliono ricordare che in fondo Ruccello ha aperto una strada. Ecco, ricordiamo chi era Annibale Ruccello, che è stato un commediografo, attore, regista italiano, no? Scomparso da poco, giusto? Scomparso nel 1980, ma devo dire con rimpianto di tutti, perché oltre che una vita stroncata, è stato proprio un commediografo che avrebbe potuto dare, è un po' come, insomma, come rimpiangiamo persone sicure come Massimo Troisi, che diciamo chissà quanto ancora avrebbe potuto darci. Ecco, Annibale Ruccello è stato, credo, un grande rimpianto da parte di tutti quelli che amano il teatro, di quelli che fanno teatro, perché ci ha lasciato delle cose straordinarie. Io direi di ricordare che fino al 5 settembre a Caserta Vecchia, la 40ª edizione di settembre al Borgo, il festival diretto da Ferdinando Ceriani e Paola Servillo, che ringrazio. Stasera Shostakovich, Il Follo Santo, abbiamo sentito musiche di Shostakovich, interpretazione di Toni Laudaddio, e domani Rosaria De Cicco in scena con una prima assoluta, Quattro mamme scelte a caso, un progetto omaggio al teatro di Annibale Ruccello. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Summertime. Che sentite è il ritorno di Afrodite, sì, proprio questo, sembrerà strana, ma è proprio la banda ionica che esegue Una lacrima sulla tomba di mia madre, e fa parte di questo spettacolo che c'è oggi alle 21:30 nel Festival della Magna Grecia, questa sera a Ricadi, poi a Diamante, poi a Crotone, ed è un'opera per danza, banda e teatro, cioè danza, banda e teatro, veramente qualcosa di incredibile. Riusciamo a riunire questi tre elementi. Buon pomeriggio ad Aurelio Gatti. Buon pomeriggio a voi. Allora, di che cosa parla? Perché noi siamo molto curiosi, visto che unite veramente tre generi per noi molto difficili da unire, per cui ce lo deve spiegare. Ma rapidamente, l'opera è un'opera inedita che si dedica a un problema attualissimo nel nostro paese, cioè il grande evento legato al ritrovamento di un reperto straordinario, archeologico, piuttosto che monumentale. Questi fatti a cui si ispira il lavoro di solito generano una sorta di tormento all'interno dei territori, dei paesi coinvolti, perché ci si augura che questi fatti siano prodigiosi e possano recare beneficio sotto il profilo turistico, sotto quello culturale, comunque una grande crescita di sviluppo e di accredito. Il reperto qual è? Il reperto in questione è la Venere di Morgantina. Morgantina al centro della Sicilia, la cronaca lo narra ormai da 10 anni, è stata al centro di un grande dibattimento perché il Polghetti Museum ha una Venere, una statua straordinaria di 2,10 metri che è la Venere, ovvero Afrodite, e questa Venere finalmente sembra che debba ritornare in Italia non più tardi del gennaio prossimo. Un'opera per danza, banda e teatro, che cosa avviene? 60 elementi in scena, quasi un colossal tra attori, musicisti e danzatori, tratto da Aristotele, Platone ed Euripide. Mamma mia, di tutto! Lo spunto è il ritorno di questa Venere in Morgantina, come il satiro danzante, come i bronzi biriaci, grandi occasioni che però vanno a cadere su un problema fondamentale per il nostro tempo, il nostro teatro, la nostra cultura, che è quello: come comportarsi e come trattare la memoria, se come un qualche cosa di esiliato, estraneo al territorio, oppure come la differenza specifica per cui uno va a vedere i bronzi di Riace a Riace, uno va a vedere Morgantina a Morgantina. Attraverso l'occasione di questo ritorno, quindi, abbiamo ideato uno spettacolo che ha una durata di circa 70 minuti, proprio diviso in 3 grandi blocchi, una commedia, un dramma e un epilogo che è un epos. La commedia perché si immagina questa piazza vivacizzata da tutte le possibili figure della commedia intorno al fatto chi deve tagliare il nastro per questa inaugurazione. Il dramma perché attraverso questa operazione si deve andare a indicare come mai, chi ha scoperto cosa e soprattutto chi ha venduto cos'altro. Quanto dura lo spettacolo? Lo spettacolo dura 70 minuti e in scena sono sempre in scena tutti i personaggi. Parte del personaggi è composto proprio dalla banda, che è la banda giunta, è una banda autentica siciliana. Poi abbiamo il maestro Pellegrino, che è un primo violino, quasi fosse un pifferaio magico, che conduce una Venere che scopriremo solo dopo che avremo avuto occasione di capire che dentro la cassa che doveva portare questa statua non c'è niente, perché Venere è sempre stata lì ed è una ottima danzatrice. Benedetta Capanna è ritornata da New York. Lunghissimo il cast, importante ricordare Filippo Luna, Sebastiano Tringali, Ernesto Lama, Elisa Di Dio, la cantante lirica. Io ringrazio Aurelio Gatti, coreografo e regista di Il ritorno di Afrodite, uno spettacolo di 60 elementi in scena per festeggiare il ritorno della Venere di Morgantina questa sera al Magna Grecia Teatro Festival a Ricadi alle 21:30, domani a Diamante e poi il 3 a Crotone. Grazie Aurelio. Grazie ancora. Quante volte da adolescenti abbiamo preso in mano una chitarra e abbiamo pensato di voler suonare così. E abbiamo fatto dei disastri, corde che saltavano e orecchie che sanguinavano. Ma Invece al Festival Chitarristico Internazionale delle due città di Treviso-Roma, in realtà le chitarre che si sentono sono ben altro, come abbiamo potuto assaporare. Allora, un festival che è in scena da oggi fino al 23 settembre, con concerti, cortometraggi, incontri con gli artisti, conferenze, addirittura un'esposizione di pittura, masterclasses dei concertisti, e una mostra di liuteria, quindi vediamo proprio, andiamo a conoscere gli strumenti musicali da vicino. Buon pomeriggio ad Andrea Vettoretti. Ho detto tutto? Buongiorno a tutti. Allora, si parte con il quartetto di flamenco mediterranea, composto da chitarra, flauti, percussione, danza e canto. Assolutamente, un concerto che molto atteso e che evoca il flamenco attraverso anche la poesia di Federico García Lorca, che oltre ad essere grande poeta fu, non tutti lo sanno, un grandissimo chitarrista, e quindi ha scritto delle canzoni con versi poetici che saranno riproposti questa sera proprio da questo gruppo Mediterranea con il chitarrista Andrea Candeli. E quindi si parla anche di Federico García Lorca, la chitarra, io leggo, accompagnerà lo spettatore in un viaggio sentimentale tra il gitano e il torero, due figure mitiche. Poi avete Jan Falú, il più importante compositore argentino, Juan, allora sarà, non è scozzese ma argentino, quindi Juan. Assolutamente, Juan Falú è considerato oggi uno dei più grandi compositori ed artisti sudamericani, come fu Astor Piazzolla, che noi in Europa conosciamo naturalmente maggiormente, ed è stato fra l'altro il primo a fondare la prima cattedra di folklore e tango al Conservatorio di Buenos Aires, quindi è un personaggio che insomma è già nella storia anche come grandissimo didatta, e presenterà un programma di sue composizioni, tutte dedicate all'acqua, che è il tema e filo conduttore del Festival delle Due Città di quest'anno. Quindi, poi Massimo Delle Cese porterà Pacific Coast. Sì, assolutamente. Massimo Delle Cese è uno degli artisti italiani più chitarristi italiani più noti, fu il primo a portare la chitarra all'Auditorium di Renzo Piano a Roma, e abbiamo il piacere di ospitarlo anche quest'anno con un programma molto vario e interessante. Allora, Andrea, io ti devo fare questa domanda, no? Perché la chitarra noi la conosciamo veramente nella nostra adolescenza con il rock, quindi diventa con il rock un po' lo strumento principale, perché fino a quel momento era quasi uno strumento di accompagnamento. Sì, naturalmente, diciamo che è l'aspetto positivo e negativo allo stesso tempo della chitarra, quindi questo essere anche popolare porta dei vantaggi, perché è uno strumento con cui tutti noi abbiamo avuto a che fare, come dicevi tu, con più o meno successo, ma è anche uno strumento molto nobile, è uno strumento caratterizzato anche da una letteratura importante che va insomma dal Rinascimento al Barocco con il grande Bach, fino ad arrivare ai nostri giorni con moltissimi compositori che dedicano il loro tempo a nuove opere per questo strumento, che sentiremo in questi giorni, da oggi fino al 23 settembre. Allora, ricordiamo, l'appuntamento è a Treviso? Assolutamente, a Treviso, al Teatro Eden, partiamo questa sera alle 20.45 con il gruppo Mediterranea e continuiamo fino al 13 settembre sempre a Treviso al Teatro Eden, e successivamente a Roma al Teatro Ghione fino al 23 settembre. Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città a Treviso e a Roma, abbiamo detto, acqua e metamorfismi, identità e alterità. Grazie ad Andrea Vettoretti, organizzatore anche quest'anno di questo splendido festival. per sentire un pochino di chitarra e sognare magari in questa fine estate. Io intanto ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it e potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it. Una buona serata a tutti.